Correva più o meno l'anno. Quando inizio? Quando devo iniziare? Quando entra la chitarra? Ovvero ora? Ragazzi. Correva ragazzi, più o meno l'anno in cui Gesù, con un'invasione di campo, interruppe la partita più importante del campionato. I giocatori della Germania sbeffeggiavano l'arbitro che era finito in panchina, espulso per tradimento da sua moglie la sera prima. La figlia segreta del prete aveva una tresca in ballo con l'imperatore. Lui le faceva venire le voglie e poi le dava la cura. Sembrava un dottore. E una volta compiuto l'atto le spiegava sempre nuove regole fondamentali. Mai mangiare la neve gialla, mai abbandonare il bagaglio, rimanere sempre in vita e guardare il sole con gli occhiali. Nel frattempo i bambini si preoccupavano sempre di più per quel che riguardava le formiche. Le formiche non avevano pareti dove appendere le cose, nemmeno un quadro o una foto. Non avevano auto su cui viaggiare e nemmeno una moto. A questo punto il fioraio della stazione decise di spiegare alla città la situazione e disse: tutti questi palazzi vorrebbero essere grattacieli, come io che sono alto 1,70, vorrei essere alto per davvero, ma poi penso che i piloti sono bassi e che da bassi si guida meglio le moto. Ma poi penso che i piloti sono bassi, sono meglio ancorati al suolo. Tutti questi palazzi vorrebbero essere grattacieli, e pensar che i grattacieli vorrebbero solleticare le stelle. E pensar che i grattacieli vorrebbero avere una faccia, vorrebbero avere il naso e una bocca, per parlare del più e del meno quando piove, quando c'è la nebbia o il cielo sereno.